Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Il 349-238-6666, come sempre, il numero per i vostri SMS e anche il numero per contattarci su WhatsApp. Oggi sarete in mia compagnia fino alle 18.30, come sempre, e poi tornerà domani Sebastiano Barisoni. Di cosa parleremo oggi? Beh, ovviamente parleremo del tema delle banche nel mirino in queste ore, soprattutto sui mercati, e in particolare MPS, considerate che in questo momento perde il 13,3%, mentre il Banco Popolare cede il 5,6%, Unicredit il 3,6%, giù anche UbiBanca del 2,28%, la Popolare Emilia Romagna del 2,13%, perdite che si sono in parte ridotte nell'arco della giornata, fatta eccezione appunto per il Monte dei Paschi e Listini, almeno il listino italiano, che è complessivamente positivo in realtà, con il FTSE MIB che guadagna lo 0,9% e altrettanto fa il FTSE All Share, mentre meglio fanno le altre borse europee, decisamente meglio. Parigi quasi 2 punti percentuali di guadagno, Francoforte l'1,5, Londra l'1,61%, mentre è positiva anche l'America di circa 0,5 punto percentuale. Toccheremo il tema delle banche perché, come in parte abbiamo raccontato ieri, come stiamo raccontando in queste ore, uno dei grandi problemi ai quali si sta guardando sono i crediti deteriorati delle banche che, dati dell'ABI diffusi questo pomeriggio, hanno raggiunto un nuovo record, hanno superato i 200 miliardi, e parliamo naturalmente delle sofferenze. Si sta ragionando sull'ipotesi di una cosiddetta bad bank, ossia una banca nella quale piazzare questi crediti deteriorati. È un fronte questo, tra l'altro, della battaglia che in queste ore sta animando i rapporti tra l'Italia e l'Europa, perché l'Europa sulla bad bank sta mettendo parecchi paletti, uno dei fronti della battaglia insieme a molti altri. Tra l'altro oggi sono nuove dichiarazioni del capogruppo, adesso ve lo trovo, del capogruppo dei popolari all'Europarlamento, Weber, il quale dice: Renzi sta mettendo a repentaglio la credibilità dell'Europa a vantaggio del populismo. Così Manfred Weber, intervenendo alla plenaria di Strasburgo, ovviamente contro repliche dell'Italia. Come sappiamo, i dossier sono molti, uno è questo delle banche, il secondo è quello dell'Ilva, è notizia di oggi che probabilmente Bruxelles aprirà un'indagine formale su un'ipotesi di aiuti di Stato per due decreti che riguardano l'Ilva, tra cui l'ultimo, quello che concede un prestito ponte di 300 milioni di euro. In mezzo c'è anche la questione dei migranti e anche questioni che riguardano la Cina e i dazi che Bruxelles vorrebbe ammorbidire, mentre l'Italia è contraria. Ci sono, se volete aggiungerceli, anche i rapporti con la Russia e questioni energetiche piuttosto profonde, il tema di Nord Stream, il gasdotto che dalla Russia arriva alla Germania. L'Europa ha di fatto dato il via libera al raddoppio, mentre nella sostanza bloccava South Stream, il gasdotto che dalla Russia arriva all'Italia, e quindi l'idea, secondo l'Italia, è che ci siano due pesi e due misure in Europa. Quanto questo poi sia, ci sono sicuramente degli elementi sostanziali, ci sono anche evidentemente degli elementi politici, se vogliamo, di campagna elettorale, perché le amministrative arrivano tra poco, però è un tema sicuramente che sta animando il dibattito europeo, e tra questi elementi appunto c'è il tema delle banche. I mercati oggi ce lo ricordano con la nuova scopola di Monte dei Paschi, meno 13,32% adesso, a 0,66% 0,66 euro la quotazione. Parla tra l'altro anche il presidente della Consob Vegas, che dice: non pensiamo che ci sia un attacco speculativo, non vedo nessun motivo concreto per i ribassi che stiamo vedendo per una serie di banche in queste ore, c'è grande volatilità, bastano stormir di fronde. E poi vieterà le vendite allo scoperto anche domani. A dire il vero, non è che oggi abbiano funzionato questo granché lo stop alle vendite allo scoperto su Monte dei Paschi. Non sarà ovviamente il nostro solo tema. In apertura ci occuperemo di lavoro. Oggi sono arrivati dei dati dell'INPS, dei quali in parte vi ha riferito anche il giornale radio. Nei primi 11 mesi del 2015 2,1 milioni di assunzioni a tempo indeterminato. Queste le assunzioni al netto delle cessazioni di rapporti, parliamo di 584.000 posti stabili nell'anno. In gran parte ovviamente tutto questo è dovuto agli sgravi contributivi che si sono avuti. Cercheremo di commentare questi dati e vedere quanto effettivamente sono rilevanti anche qua, al di là dei proclami politici che ci sono. Sicuramente è una buona notizia, vediamo insomma quanto fondamento c'è nel fatto che sia stato proprio il Jobs Act, ossia la riforma del mercato del lavoro, a portare a questo risultato. Vedremo se riusciremo nell'ultima parte della trasmissione di banche. Parleremo dopo le 18, nell'ultima parte della trasmissione, quindi nella fase finale, ad occuparci di trivelle, come anche il giornale radio vi ha raccontato. La Consulta ha dato il via libera al referendum chiesto dalle regioni sulle trivelle, la Consulta, la Corte Costituzionale. Anche qua il percorso è stato piuttosto strano e complesso, come sempre avviene in Italia, nel senso che erano stati presentati 6 quesiti, poi in legge di stabilità sono intervenute delle norme che hanno di fatto reso inutili 5 quesiti, ne è rimasto in piedi solamente uno, che è quello che riguarda la durata delle autorizzazioni a esplorazione e trivellazioni dei giacimenti già rilasciate. In realtà qua il tema, se vogliamo, è più profondo, ossia nel momento nel quale si stabilisce una politica energetica nazionale o una politica energetica, cattiva o buona che sia, cioè non mi interessa quale sia il giudizio, se sia una politica energetica che prevede le trivellazioni o che prevede di fare sterminati campi di solare o di eolico, di chi sia la competenza e se lo Stato abbia una preminenza sulle regioni e sugli altri enti locali e che preeminenza abbia da questo punto di vista, che è il grande tema che ha attraversato un po', se volete, tutta la politica italiana, anche sul tema delle infrastrutture, da quella sciagurata riforma federalista fatta dal centro-sinistra e che, come abbiamo visto nei fatti, non ha funzionato e lo dice lo stesso Partito Democratico, quindi non è che stiamo facendo una presa di posizione, stiamo prendendo posizione politicamente. E poi avremo anche spazio per l'economia internazionale. Ci sono i dati del Fondo Monetario Internazionale oggi e una Cina che segna un parziale rallentamento. Vi ripeto i numeri, ma tanto riconoscete, 349-238-6666 per gli sms e anche per WhatsApp, il numero è lo stesso, 349-238-6666. Le notizie in breve di oggi. Allora, iniziamo dall'oro in lieve calo a 1088 dollari l'oncia. Il petrolio osservato speciale di queste ore, oggi in parziale ripresa, forse anche a questo dobbiamo l'andamento dei mercati. Il WTI con consegna a febbraio è sempre sotto i $30 al barile, ma guadagna lo 0,62%. Il WTI è quello quotato a New York. Quello quotato a Londra, quello del Mare del Nord, con consegna a marzo, un più 2,8%, addirittura siamo a $29,3 al barile. I dati dalla Cina, come si diceva, la crescita cinese scende al 6,8% nell'ultimo trimestre del 2015, trascinando ai minimi da 25 anni quell'annuale al 6,9%. La crescita più debole dal momento nel quale si è innescata la crisi globale nel 2008. Nel trimestre precedente la crescita era stata del 6,9%. La banca centrale cinese è pronta a iniettare 91 miliardi di dollari, 600 miliardi di yuan, attraverso prestiti a medio termine, con l'obiettivo di garantire al sistema bancario livelli di liquidità soddisfacenti e ampi. Questo è quello che comunica l'istituto centrale in un comunicato. Precisa anche che i tassi di interesse verranno tagliati al 2,75%. E ancora che continuerà a supportare le istituzioni finanziarie di piccola e media grandezza. A questo sono dedicati i 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore, che vi ricordiamo vanno in onda anche su RDS, Radio Dimensione e Suono, oggi curati dal vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Mentre l'Europa continua a mandare segnali di scollamento politico e di vera disunione, ci sono indicazioni globali che non vanno sottovalutate e che la stessa Unione Europea dovrebbe considerare come un'allerta. Uno di questi è senza dubbio il rallentamento dell'economia cinese, che è stato finora il primo motore dello sviluppo mondiale e un mercato di grandissimo interesse per le merci europee, soprattutto italiane. È di oggi il dato sul PIL, che con un più 6,9% è il risultato più basso da 25 anni. Era nelle attese, ma questo non sminuisce il peso negativo di questa notizia. L'atterraggio morbido dell'economia di Pechino è evidente. Nel terzo trimestre il PIL era fermo al 6,9%, nel secondo invece era al 7%. Il 2014 si era chiuso con un più 7,3%. Sta cambiando il modello economico di Pechino, rallenta la quota manifatturiera e crescono i servizi, mentre il drago cinese tenta di aprirsi al mercato finanziario con mosse ancora tra l'ingenuo e il dirigistico, che finora però hanno più spaventato gli investitori che non attrarli. La crescita degli investimenti in fabbriche, abitazioni e altri beni immobili, un volano vero dell'economia, si è indebolita di 2,9 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Le esportazioni di dicembre si sono ridotte dell'1,4% e le importazioni, dato che ci colpisce, sono calate del 7,6% su base annua. Sale la spesa per il commercio online, che è un altro segnale della struttura ad alto potenziale di questa economia assetata di modernità. Rispetto al 2014, in un anno le vendite sul web sono salite del 33%. È sempre di oggi però anche la stima del Fondo Monetario Internazionale, che si aspetta una crescita cinese in arretramento al 6,3% in quest'anno e del 6% nel 2017. In calo sono anche le aspettative sull'India e soprattutto sulla Russia. Insomma, l'Europa farebbe bene a tenerne conto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, qualcuno ci scrive che i dati della Cina stranamente sono esattamente quelli che ci si aspettava. Chiede, non è che sono manipolati dal governo. Diciamo che il dubbio è lecito per una serie di motivi. Innanzitutto perché di solito i dati sulla crescita economica non sono mai o quasi mai quelli che sono previsti dagli analisti. Il secondo punto è che molti dubbi vengono, si appuntano su questo tema e si sono appuntati nelle settimane scorse. Detto ciò, per il momento dobbiamo fidarci di quello che dicono. Abbiamo anche i dati forniti dal Fondo Monetario Internazionale, che taglia le stime di crescita globali. I rischi restano a ribasso. Il fondo prevede un PIL mondiale in crescita del 3,4% nel 2016. Le stime sono calate. In ottobre si attendeva un 3,6. Un altro 3,6 previsto per il 2017. Si stima un più 6,3 per la Cina nel 2016, un più 7,5 per l'India. Veniamo all'Italia e all'Europa. Secondo il Fondo Monetario, l'Europa crescerà dell'1,7% nel 2016. Ci sarà un rallentamento degli Stati Uniti. E per l'Italia le stime sono confermate, più 1,3% nel 2016, più 1,2% nel 2017. Oh, il tema dello scontro, che è uno scontro di dichiarazioni che, come dicevamo, ha sotto molto altro tra l'Italia e l'Europa. Jean-Claude Juncker torna sul suo piano di investimenti davanti alla plenaria di Strasburgo, dice che c'è chi ritiene che la Commissione non sia stata attiva, ma non è vero. Il piano di investimenti in azione sono stati già mobilitati 40 miliardi e 11 di questi, non miliardi, ma progetti, sono in Italia. Ci sono, come vi dicevo, le dichiarazioni del presidente del Gruppo Popolare Europeo, Manfred Weber, che dice: Renzi sta mettendo a repentaglio la credibilità dell'Europa a vantaggio del populismo, e ringrazia Federica Mogherini dicendo: l'Europa è capace di grandi successi, e cita l'accordo sul nucleare iraniano. Replica Gianni Pittella, capogruppo dei socialisti: ridicolo pensare a Renzi che sfascia l'Europa, lavoriamo per risolvere i problemi, nessuno ci metta l'anello al naso. E parla lo stesso Renzi, che commentando un accordo raggiunto con Cisco per un investimento da 100 milioni di euro, dice: l'Italia è più solida e ambiziosa, se ne facciano una ragione, l'Italia è tornata. Allora, Monte dei Paschi in questo momento cede un 14,4%, abbiamo i dati dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, che dice, come vi dicevo, che tornano a salire a novembre le sofferenze bancarie, che si riportano sopra quota 200 miliardi, mentre quelle nette raggiungono gli 88,8 miliardi di euro. C'è la Banca Centrale Europea che, tramite un portavoce, molti dei cali di ieri erano stati attribuiti al fatto che la Banca Centrale Europea avrebbe detto: vogliamo scavare un po' meglio, vogliamo delle verifiche sui bilanci di 6 banche, sui loro requisiti patrimoniali e soprattutto sulla quantità di sofferenze, e quindi si è detto, insomma, queste banche sono a rischio, potrebbero aver bisogno di una ricapitalizzazione. Dunque la BCE dice: è una pratica di supervisione standard, lo facciamo anche con altre banche dell'area euro. Lo dice anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan: nessuna preoccupazione dalla BCE, una prassi. E parla anche Vegas, come vi dicevo poco fa. Ecco cosa dice: sono retropensieri che noi non abbiamo, quelli su un attacco speculativo all'Italia. Nessun motivo concreto per i cali delle banche. Il motivo principale è il mercato volatile, dove basta uno stormir di fronde per fare spostamenti anche notevoli. E appunto la decisione di vietare la vendita allo scoperto, le vendite allo scoperto sul titolo del Monte dei Paschi anche per la giornata di domani. Va bene, sul tema delle banche ci torneremo più avanti, adesso ci occupiamo di lavoro. Ed eccoci dunque con i dati diffusi oggi dall'INPS. Qualcuno ha già scritto, succede sempre così, anzi è successo oggi in effetto giorno, scusate, a volte capita di confondere gli sms che arrivano: come al solito fate la gran cassa a Renzi. Ragazzi, basta, sono i dati dell'INPS, ma che dobbiamo fare oltre che riferirvi i dati dell'INPS e andarli a commentare con qualcuno possibilmente terzo? cioè non con un deputato del Partito Democratico, del Nuovo Centrodestra o di Scelta Civica, ma con qualcuno che si occupa di lavoro quotidianamente. Emanuele Massagli, presidente di ADAPT. Cos'è ADAPT? È un'associazione fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere studi e ricerche nell'ambito delle relazioni industriali e sui temi del lavoro. Massagli, benvenuto. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, i dati dell'INPS: in 11 mesi 510.000 contratti fissi in più sul 2014, contratti a tempo indeterminato, che sono il frutto di 2,1 milioni di assunzioni e 1,5 milioni di cessazioni, quindi variazione positiva per 510.000 unità. Tra gennaio e novembre le assunzioni a tempo indeterminato sono state 1.640.000, il 37% in più dello stesso periodo del 2014, ancora dati dell'INPS. Le assunzioni a termine sono state 3.187.000. Ci sono in queste, ovviamente, nei dati che vi stiamo fornendo, soprattutto sulle assunzioni a tempo indeterminato, ci sono una serie di trasformazioni, ossia le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, 388.000. Allora, su cortese richiesta dei nostri ascoltatori e anche nostra, Massagli, ci aiuti a districarci un po' in questi dati. Quanto sono importanti, quanto sono positivi? Prego. Sono dati sicuramente importanti perché segnano comunque un inizio di cambio di tendenza, per cui dopo anni ormai in cui sostanzialmente i dati annuali continuavano sull'occupazione continuavano a peggiorare, si torna a vedere qualche dato col segno più. Non è ancora un cambio di rotta clamoroso, perché poi leggendo bene i dati rimangono ancora dei dubbi sulla tenuta di questo cambio di rotta in termini stabili. Il primo principale dubbio forse è il fatto che questi dati si devono sì al Job Act, come oggi poi ha detto subito il Premier, ma si devono soprattutto alla decontribuzione prevista con la legge di stabilità dello scorso anno, per cui quella generosa decontribuzione che il governo ha concesso a chi ha assunto a tempo indeterminato nel corso del 2015 e che dura per 3 anni. Questa decontribuzione spiega buona parte di questo incremento e spiega anche il perché della crescita anche in questi ultimi mesi dell'anno, perché le imprese che dovevano assumere hanno accelerato le assunzioni per poter entrare nella disciplina del 2015. Certo, evidentemente, probabilmente, tra l'altro, immagino che ci sarà un'accelerazione ulteriore in dicembre, perché qua noi abbiamo i dati da gennaio a novembre. Novembre. Esatto. Immagino che a dicembre si registrerà un'ulteriore accelerazione, perché se questo è il paese nel quale tipicamente le cose avvengono all'ultimo minuto, ma anche perché la legge di stabilità è stata, come dire, approvata negli ultimi mesi dell'anno e quindi non si aveva ancora chiarezza su quale sarebbe stata la disciplina del 2016, si sapeva che ci sarebbe stata una decontribuzione ma non si sapeva se sarebbe stata tanto generosa quanto quella del 2015, e così non è. Probabilmente dicembre sarà un mese nel quale si segnerà un rafforzamento di questa tendenza. Sicuramente, anche poi dicembre in più è un mese di stagionalità, per cui è un mese che tendenzialmente tende ad avere dei dati più elevati, quantomeno i dati comprensivi anche dell'impatto stagionale, per cui gli addetti ai lavori si immagino anche i dati per dicembre di dicembre piuttosto positivi. La decontribuzione prevista per quest'anno, per il 2016, è praticamente il 60% in meno rispetto a quella prevista l'anno scorso, per cui a un datore di lavoro indubbiamente conviene aderire alla normativa del 2015. Senta, io so che è un tema sul quale siete spesso impegnati come associazione ed è quello dell'apprendistato. I dati che ci consegna l'INPS oggi sono molto negativi da questo punto di vista, si segna un meno 25% se non sbaglio. Esatto, l'apprendistato è la vera vittima, tra virgolette, della progressione del contratto a tempo indeterminato. Lo è molto di più del contratto a termine, perché se poi guardiamo il numero di attivazioni, il numero dei contratti a tempo determinato è ancora doppio rispetto a quelli dei contratti a tempo indeterminato. il che è un dato abbastanza stupefacente, perché proprio in forza del discorso che facevamo prima, se pensiamo a quanto era incentivato economicamente il tempo determinato e vediamo che comunque i contratti a termine sono il doppio, questo è già un segnale del fatto che è vero che per alcune la ripresa si incomincia a sentire, ma permangono ancora molti dubbi, per cui nonostante l'aiuto economico molte aziende preferiscono comunque assumere a termine. L'apprendistato è crollato del 25%, perché le imprese, nonostante l'apprendistato sia per legge, non per legge di stabilità, per cui sia strutturalmente una forma contrattuale incentivata da un punto di vista della contribuzione, rispetto al contratto a tempo indeterminato ha un, tra virgolette, una controindicazione tra virgolette in più, cioè c'è la formazione da dare al giovane. Molte imprese hanno preferito assumere con un contratto standard che non ha gli obblighi formativi, godendo dell'esonero contributivo. E questo Oppure, mi scusi, intervengo, oppure virare sui voucher, dei quali segnaliamo una crescita notevole secondo i dati dell'INPS, un più 67,5%, 102 milioni di voucher. Sì, il numero in termini assoluti fa impressione. Io però non credo, io personalmente sono abbastanza un sostenitore del voucher, questo forse è un po' fuori moda dirlo in questo momento, perché il voucher è molto attaccato proprio in forza di questa grande crescita. C'è da dire che da sempre, dal 2008, ma anche dopo il Jobs Act, sono abbastanza stringenti i limiti all'utilizzo del voucher, per cui è indubbio che il voucher può coprire un'altra parte di rapporto di lavoro non regolata dal voucher che sia nero, però è anche vero che il voucher ha da una parte la potenzialità di far emergere molti rapporti che prima erano neri, e comunque ponendo un vincolo in capo lavoratore non più di 7.000 euro all'anno tramite voucher, è un vincolo molto stringente in capo all'impresa che non può per singolo lavoratore utilizzare i voucher per più di 2.000 euro, evita l'utilizzo del voucher come mercato del lavoro parallelo. Si sbaglia chi pensa che il voucher sia il mini jobs alla tedesca, è un altro strumento, uno strumento che è nato soprattutto in contrasto al nero. E se è visto strumento in contrasto al nero, la sua crescita e la crescita in particolare in zone che tendono ad avere un nero molto forte è un segnale secondo me positivo e non negativo. Benissimo, però sulla domanda nello specifico lei mi diceva non sono convinto, come dire, che il voucher vada in sostituzione di altre forme contrattuali, cioè quello che dico è questo: il voucher c'è da qualche anno e però piano piano sta prendendo piede, no? Come dire, anche culturalmente è stato difficile accettarlo, piano piano le aziende e anche le persone singole hanno capito come funziona e può essere stato sfruttato appunto al posto magari di un contratto a termine? Solo al posto di contratti a termine con importi molto bassi, perché appunto non potendosi attivare un voucher per datore di lavoro profit cioè una somma di voucher oltre i 2.000 euro per singolo rapporto di lavoro, è chiaro che se è in sostituzione di un contratto a termine che in un anno comunque comportava meno di 2.000 euro, per cui di un contratto a termine certamente di importo molto, molto basso. D'importo la media degli importi dei contratti a termine è superiore a 2.000 euro, pur non essendo cifre pari alla media dei contratti a tempo determinato, ma è superiore ai 2.000 euro. La ringrazio, grazie ad Emanuele Massagli, presidente di ADAPT, associazione che si occupa appunto di relazioni industriali e di lavoro, e fu fondata da Marco Biagi nel 2000. Ci sono un po' di messaggi vostri via WhatsApp, via SMS, dopo la pausa. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per gli sms, così come per i messaggi su WhatsApp, qualche risposta o più che altro riflessione su quello che ci scrivete. Allora, sono ben in due a dire questo: si aiuta a regolarizzare il nero con i voucher, fai un voucher di un'ora e fai lavorare la persona 8, un altro ascoltatore dice sì, fai un voucher di un'ora e lo fai lavorare 6, e un altro ascoltatore ancora dice: a proposito della decontribuzione, assumono anche i familiari, sono lavoratori fittizi, solo per la decontribuzione. Ora, scusate, io posso immaginare che, essendo il paese che siamo, ci sia una quota evidentemente di vogliamo chiamarle truffe, di irregolarità. Pensare che però su numeri così grandi come quelli del mercato del lavoro italiano e di stiamo parlando di 2 milioni di contratti complessivamente, con 1,5 milioni di cessazioni, 500 mila invece nuovi contratti, 102 milioni di voucher. Non posso pensare su questi numeri tutti stiano truffando, perché insomma sarebbe un paese tecnicamente fallito, oppure molto ma molto più ricco di quanto non pensiamo. Ed è probabile che ci sia un nero immenso, anche sul tema dei voucher. Non sto dicendo che non ci sia, per carità, qualcuno continua a scrivere anche su WhatsApp su questo, per carità, non sto dicendo questo. Però, ripeto, non posso pensare che su numeri così grandi la percentuale di truffe sia maggioritaria, ecco, quantomeno per la paura di essere beccati. Veniamo alla borsa, va, che chiude con un rialzo dell'1,04% sul FTSE MIB, dell'1,01% sul FTSE O'Share, mentre meglio fanno le altre borse europee, più 1,97% Parigi, Francoforte più 1,5%, Londra più 1,6%, l'America in guadagno dello 0,83% sul Dow Jones e dello 0,79% sullo Standard & Poor's 500. Ciao Condina, Radio Corriere del Sole 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Immagino che la differenza di performance tra la nostra borsa e quella degli altri paesi sia dovuta essenzialmente alle banche, no? Assolutamente, a livello comunque diciamo settoriale in Europa hanno spinto soprattutto i titoli delle costruzioni, delle materie prime, delle utilities invece, e questo spiega poi i rialzi di Londra, di Parigi, di Francoforte, che sono superiori a Piazza Affari, dove invece come dicevi giustamente tu hanno pagato dazio soprattutto i titoli delle banche, ma puntualizziamo delle banche che sono stati oggetto di ulteriori richieste di accertamenti da parte della BCE sui cosiddetti crediti dubbi. Questo per quanto riguarda il quadro complessivo, appunto, Monte dei Paschi meno 14,3, Banco Popolare meno 6,3, Unicredit meno 3,46, giù anche UBI Banca dell'1,91%, come si diceva. Per quanto riguarda i titoli positivi, visto che diciamo quelli negativi li abbiamo quasi esauriti, dobbiamo metterci anche Unipol meno 1,98, Posta Italiana meno 1,9, Unipol Sai meno 1,7, Ferragamo meno 1,02 e Mediaset meno 0,19%. Andiamo sui positivi, a partire da Ferrari, un più 8,5% in chiusura di seduta. È un bel rimbalzo di Ferrari, ricordiamo che Ferrari è sbarcata a Milano dopo l'esordio a Wall Street lo scorso 4 gennaio, da quel giorno aveva perso all'incirca il 15%, quindi un bel passivo insieme anche a Fiat che ricordiamo sempre da quella data aveva perso il 30%, oggi insomma per Ferrari è un bel rimbalzone, più 8,6%, evidentemente c'era qualcuno che vedendo Ferrari a 35 euro l'ha considerato un affare, e anche Fiat è risalita più 2,5%, in questo caso un rialzo un pochino meno deciso. Telecom Italia più 4,7%. Beh, su Telecom Italia invece giocano soprattutto le attese per il consolidamento nel settore telefonico, consolidamento di cui ha parlato anche in un'intervista alla Repubblica, la D di Telecom Italia Marco Patuano, poi c'è il tema di Vivendi che continua ad arrotondare la quota in Telecom, insomma si attende una breve manovra appunto nel settore dell'M&A per il gruppo, oggi gli operatori hanno deciso appunto di scommettere su queste prospettive con un rialzo del 4,7%. Allora, Ferragamo a parte, come si diceva, lasciato sul terreno l'1,02%, complessivamente va bene il settore del lusso, Yux Net-a-Porter più 4,3%, Luxottica più 2,37%, Tots più 0,81%. Sì, assolutamente, diciamo che comunque sono dei titoli che nelle scorse sedute sono stati comunque penalizzati come molti altri dalle prospettive di un rallentamento del sud-est asiatico, oggi è stata una seduta di buoni recuperi, anche Moncler ha mostrato comunque un rialzo dell'1,6%, unico neo quello di Ferragamo che cede l'1%, è ancora nuovamente a ridosso di 20 euro. Allora, gli altri titoli, per chi ce li chiede, Settimo Microelectronics un guadagno del 4,03%, CNH più 3,42, bene Tenaris più 3,16, Terna più 3,07, Azimut più 2,47, bene Campari più 2,4, Finmeccanica più 2,21, Prismian più 2,12, bene Mediobanca più 2,07. 08, pardon, Buzzi Unicem più 2,01, Atlantia positiva dell'1,9, Exor dell'1,91, bene anche Snam più 1,88, Anima più 1,6, di Moncler si diceva Eni più 1,37, Enel più 1,17, A2A più 1,11, intonati bene come tutto il settore, come ci diceva CEO Condina, grazie e buona giornata e buona serata. Grazie a te, buona serata. Il traffico, poi parliamo un po' di economia internazionale, poi nella seconda parte della trasmissione torniamo a parlare di banche. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp. Qualcuno scrive ancora a proposito del tema dei voucher, lo fa Raffaele da Pistoia che dice quella poveretta che è morta a luglio per il caldo e un infarto, la pagavano a voucher, sulla carta guadagnava 50 ma poi le doveva dare la metà ai caporali. Gli schiavi nelle miniere di diamanti stanno meglio, ora questo non lo so e forse il paragone è un po' azzardato. Detto ciò, qua nessuno sta dicendo che non ci siano abusi in questo modo, così come probabilmente anche nello sfruttare la decontribuzione. E abusi che evidentemente vanno puniti. Ripeto che però parliamo di 102 milioni di voucher e io sinceramente fatico a credere che siano stati utilizzati tutti in questo modo, tutti 102 milioni di voucher nell'anno, tutti utilizzati in abuso. Per questo c'è il penale, ci sono i controlli, ci sono le verifiche, poi magari possiamo ragionare sul fatto che non funzionano, per carità, su questo ci siamo. Allora, parliamo adesso di economia internazionale, e lo facciamo perché sono arrivate le previsioni del Fondo Monetario Internazionale in una giornata che tra l'altro incrocia il dato trimestrale della Cina sulla crescita economica. PIL cinese che si diceva fa segnare una crescita del 2015 ai minimi da 25 anni, un più 6,9%, e le previsioni del Fondo Monetario sono ancora di più a ribasso per l'anno prossimo, un più 6,3%. Un Fondo Monetario, Alessandro Merli, del Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera. Che mi sembra discretamente meno ottimista di qualche tempo fa. Ma è la terza volta che il Fondo Monetario taglia le sue previsioni sull'economia globale. Chiaramente la Cina, l'hai già citato, è uno dei principali fattori, anche se, dice il Fondo, più o meno sta andando in linea con quello che ci aspettavamo. Naturalmente c'è sempre la grossa incognita se credere alle statistiche ufficiali sull'economia cinese o no. Il problema è che non è solo la Cina, ma sono gli altri paesi emergenti che negli anni passati avevano fatto da traino un po' a tutta l'economia globale, adesso invece fanno da zavorra, soprattutto il Brasile e la Russia stanno andando malissimo, la Russia per il crollo del prezzo del petrolio, il Brasile per la pessima gestione economica del governo e a sua volta per il calo dei prezzi delle materie prime. Questi due fattori, soprattutto il Brasile, spiegano quasi interamente questo taglio delle previsioni, che è dello 0,2 sia per quest'anno che per l'anno prossimo. Questo il quadro complessivo per quanto riguarda le previsioni del Fondo Monetario Internazionale per il pianeta. Qua si segna ancora una crescita del 6,3% nel 2016 per la Cina, una crescita che probabilmente non basta a Pechino. Sì, la crescita sta rallentando, quest'anno 6,9%, l'anno prossimo 6,3% e l'anno dopo 6%, quindi c'è una chiara tendenza al rallentamento, e questo ha degli effetti sul resto del mondo, sia attraverso il canale del commercio, perché uno degli elementi più importanti è che calano in Cina sia le importazioni che le esportazioni, e sia attraverso così la volatilità, la fiducia dei mercati finanziari. Abbiamo visto sia l'estate scorsa che nelle ultime settimane quanto i problemi della Cina si ripercuotano anche sui mercati finanziari dei paesi più avanzati. Quindi non è un aspetto a sottovalutare. Il Fondo Monetario cita tre elementi che possono far deragliare, dice proprio così, la crescita dell'economia mondiale. Il primo è questa transizione cinese, il secondo è il prezzo del petrolio e il terzo è la politica monetaria della Federal Reserve, che ha cominciato ad alzare i tassi ma non si sa quando e come farà i prossimi rialzi, e quindi anche questo tende a creare incertezza sui mercati finanziari. Infine, Alessandro, l'area euro e l'Italia. Qua invece si vede una crescita al rialzo, cioè sembra quasi, permetti il paradosso, Alessandro, che sembra quasi non tener conto di tutti questi fattori esogeni e quindi esterni, che poi diventano fattori in realtà endogeni per ogni singolo paese. Cioè si rialza la stima sulla crescita europea e si conferma quella per l'Italia, tra l'altro. Beh, sostanzialmente le cifre sono le stesse, la previsione per quest'anno per l'area euro è dell'1,7, era dell'1,6, l'anno prossimo ancora l'1,7 della stessa di ottobre, per l'Italia parliamo dell'1,3, dell'1,2% per il 2016 e 2017, c'è un po' di ripresa rispetto all'anno scorso, ma insomma non c'è niente di cui entusiasmarsi. Diciamo che in questo momento l'area euro, la BCE l'ha detto molte volte, sta beneficiando più che del commercio, che uno con l'estero, che è uno dei suoi motori tradizionali, soprattutto in paesi come Germania e Italia, più che di questo sta beneficiando di un miglioramento dei consumi interni, c'è meno frenata che viene dalle manovre di aggiustamento del bilancio rispetto agli anni scorsi, quindi diciamo questi fattori tendono un po' ad isolare l'area dell'euro da quello che sta succedendo nel resto del mondo. A questo va aggiunto il fatto che ovviamente il crollo del prezzo del petrolio vuol dire più consumi e anche costi più bassi per le imprese, quindi diciamo in più c'è infine il deprezzamento dell'euro nell'ultimo anno, quindi diciamo che c'è una serie di elementi che aiutano un po' l'area dell'euro, anche se le prospettive non sono eccitanti, quantomeno ad evitare dei declassamenti della crescita come succede per altri paesi. Grazie ad Alessandro Merli del Sole 24 Ore. Qualcuno ci scrive ancora a proposito di voucher, e questa non è una trasmissione di servizio, dice insiste per i voucher, in forza anche per i datori di lavoro del non profit, credo di sì, ma informatevi meglio, insomma, per questo ci sono altre trasmissioni e altre fonti di informazione. Comunque, insomma, per quel che possiamo e per quel che sappiamo, informatevi, c'è internet. Ci fermiamo, tra un attimo ci ritroviamo, parliamo di banche e poi parliamo anche del referendum sulle trivelle. La consulta ha dato il via libera. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Al via dal 22 gennaio le iscrizioni a scuola. Ma come aiutare i nostri ragazzi a scegliere le superiori? I consigli di Radio 24, venerdì 22 gennaio a Cuore e Denari dalle 10.30 e giovedì 28 gennaio nello speciale scuola, quale scelta per i nostri figli, dalle 21. Le vostre domande in diretta o via mail a scuola@radio24.it. Focus Economia. Eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms e anche per i messaggi su WhatsApp. Ancora molti ne arrivano sul tema dei voucher. Qualcuno fa addirittura percentuali, il 98,9% dei voucher in edilizia e agricoltura coprono lavoro nero. No, adesso dovremo capire da dove ricaviamo questi dati. I controlli sono impossibili perché i voucher non hanno ora e data, ci scrive, quindi chi controlla trova tutto in regola, questo ci scrive Ilaria. È un tema, come vedo, è un tema che dovremo approfondire ulteriormente, evidentemente. Posto ciò, come al solito e come vale per, se posso, se permettete, per tutte le cose della vita, come per esempio la tecnologia o qualsiasi altra cosa, o anche la guida di un'auto, il problema non è lo strumento, il problema è come lo si usa e chi controlla. Non è lo strumento in sé, che magari crea una semplificazione. È come viene utilizzato questo strumento, se viene usato in modo truffaldino e soprattutto chi effettua i controlli e come li effettua. Certo, poi c'è anche da dire come viene pensato questo strumento. Magari ci sono delle cose da correggere. Comunque, passiamo ad altro argomento, passiamo a parlare di banche. Allora, i dati di borsa li abbiamo forniti poco fa, ma tanto vale ripeterli. Uno su tutti, un mese fa Monte dei Paschi valeva 1,2 euro, oggi ne vale un'azione di Monte dei Paschi 0,65 centesimi. Letteralmente dimezzato il valore nel giro di un mese. Due botte da 15% in meno nel giro di due giorni, oggi il 14,3%, giù anche Banco Popolare, meno 6,3%, Unicredit meno 3,4%, UbiBanca meno 1,91%, Popolare Emilia Romagna meno 0,44%. Anche Carige giù dell'11,23%. Molta pressione sulle banche per il tema delle sofferenze, ossia i crediti che non sono più esigibili sostanzialmente dalle banche. Si arriva, tra l'altro, è notizia di oggi, a quota, si torna a superare quota 200 miliardi, a 201 miliardi, è un dato dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Il tema è dove metterle queste sofferenze e come capirete, come vi abbiamo raccontato e come torniamo a raccontarvi adesso, è un altro dei fronti di questo scontro tra Roma e Bruxelles che comprende tanti elementi, tra cui l'ILVA, la questione dei migranti, in tema bancario anche le normative sul bail-in e soprattutto la tutela degli investitori colpiti dal cosiddetto decreto salvabanche che ha creato qualche problema in fase di elaborazione del decreto. E dunque c'è anche il tema delle sofferenze bancarie. Dove le mettiamo? Le mettiamo in una bad bank. Moria Longo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Iniziamo facendo un po' di un tutorial. Che cos'è la bad bank? A quello non lo sa nessuno, il problema è proprio questo. Una bad bank in teoria dovrebbe essere una sorta di salvadanaio in cui mettere i crediti deteriorati delle banche italiane. Il problema è che una cosa così l'Europa non l'accetterà mai e quindi è da mesi, ormai quasi un anno, che si tratta con l'Europa per trovare una soluzione che non costituisca una bad bank ma che costituisca qualcosa che aiuti le banche a smaltire i crediti deteriorati. Quindi devi fare una bad bank senza dirglielo esplicitamente. Bravo, per cui la bad bank in realtà, se pari con il governo, tutti dicono che chiamare la bad bank è sbagliato, che non si crea una bad bank, si creerà una sorta, l'idea di creare delle garanzie per aiutare le banche a smaltire i crediti deteriorati. Il problema vero qual è? Le banche hanno crediti deteriorati, hai detto tu, le sofferenze ammontano, che sono quelli più deteriorati, a oltre 200 miliardi, ma se si guardano tutti i crediti deteriorati nel sistema bancario italiano si superano i 300, si sta intorno ai 350 miliardi di euro. Perché le sofferenze sono quelle, diciamo, che diamo per perse, per così sì, dire. Crediti, diciamo che i crediti deteriorati sono un po' come il formaggio, vanno a seconda della stagionatura. Quelle in sofferenza sono quelli veramente stagionati, quelli vecchi, quelli irrecuperabili, che vengono ampiamente svalutati in bilancio. Poi ci sono quelli un po' meno messi male, che sono per esempio gli incagli, o ancora quelli messi ancora meglio, diciamo, sono gli scaduti o i ristrutturati. Quindi è un mondo fatto di varie tipologie di crediti, di cui le sofferenze, i crediti in sofferenza, sono quelli veramente messi male, dove la banca sa di recuperare pochissimo da quei crediti. E ci sono altri, oltre a questi 200 miliardi di sofferenze, ce ne sono altri 150. No, altri 150, quindi totale 350 di crediti deteriorati in senso lato. Allora il problema qual è? Una banca, quando un credito non viene più ripagato e quindi inizia a diventare deteriorato a seconda delle varie livelli, la banca deve svalutarlo in bilancio, cioè deve mettere da parte una parte di soldi e mettere a perdita una parte di quello che ritiene di avere perso. Quindi è una proiezione, uno deve stimare quanto di 100.000 euro dati al mutuo al signor Mr. X, quanto di quei soldi verranno recuperati, dipende dalle garanzie, dipende da vari fattori. Il problema qual è? Che le banche le hanno svalutate negli anni passati molto poco, quindi ma non mettevano le perdite in bilancio, e ancora oggi si teme che questi crediti siano ancora sopravvalutati in bilancio. Questo è quello che teme la borsa. Perché? Perché se le banche dovessero vendere questi crediti, chi li compra? Ovviamente li compra a prezzi molto bassi, perché poi vuole recuperare il credito e guadagnarci. Quindi il motivo per cui le banche non riescono a vendere crediti deteriorati, perché ci sono investitori in tutto il mondo che li vorrebbero comprare, ma perché non li comprano? Perché loro li vogliono comprare, diciamo, al 20% del valore nominale. Le banche ce l'hanno in bilancio al 40%. Quindi il problema che c'è... Perché la sostanza è questa, che tu, investitore internazionale o anche italiano eventualmente, ce ne sono tantissimi, compri questo credito al 20% sperando al 20% del suo valore, sperando di recuperare, mettiamo, un 30%, sì, o anche un 25% se il numero di crediti è particolarmente rilevante. Chiudi la pratica, il debitore a quel punto paga quel 25% del debito che aveva inizialmente, come dire, tu ci fai quel margine del 5%. Esattamente. In il problema è che le banche hanno in bilancio un valore molto più alto rispetto a quello che il mercato è in grado di pagare, e qua viene il problema della bad bank. Il problema è: chi si prende la perdita? Cioè, se il mercato è disposto a pagare 20, dico una cifra a caso, e le banche ce l'hanno in bilancio a 40, e questo non è a caso, più o meno è questo il livello medio della svalutazione, quel 20% di perdita, chi se lo prende? Questo è il problema. Allora, una bad bank significherebbe che con soldi pubblici si mette la perdita nella bad bank, si svaluta, quindi le banche non prendono la perdita ma la prende la bad bank, quindi i soldi pubblici, e questo risolverebbe il problema. Ma non, questo non passerà mai, l'Unione Europea non vuole, tra l'altro adesso ci sono le regole sul bail-in che rendono tutto più complicato, e quindi questo non si può fare. Quindi si sta cercando di trovare un sotterfugio tecnico per cercare di aiutare comunque le banche a smobilizzare questi crediti deteriorati. Il problema, ripeto, è che il gap tra il valore di bilancio di questi crediti e il valore a cui il mercato è disposto a pagare è talmente ampio che è veramente difficile capire come si possa quadrare questo cerchio. Il problema qual è? È che se le banche continuano a mantenere questi 200-350 miliardi di crediti deteriorati in bilancio, questa cosa assorbe il loro capitale, riduce enormemente la capacità loro di erogare credito. Uno dei motivi per cui l'Italia ha avuto questa pesante recessione e per cui è stato proprio perché le banche non sono più riuscite, per anni hanno erogato molto meno credito. In Italia si sono persi oltre 100 miliardi di crediti erogati alle imprese dal 2011 ad oggi. Questo perché? Perché le banche non le erogavano più. Perché non le erogavano più? Uno dei motivi, o non più, adesso sto esagerando, le hanno erogati col contagocce molto meno, uno dei motivi è perché avevano enormi perdite in bilancio che non riuscivano a contabilizzare, quindi diventava un problema serio proprio per la stabilità del sistema bancario italiano. Allora ti fermo intanto, Mori, e poi voglio tornare con te su questi argomenti per capire soprattutto quale ipoteticamente potrebbe essere questo sotterfugio per far passare la bad bank, anche se mi sembra di capire che siamo in alto mare nonostante ci si ragioni da un anno, ma lo facciamo dopo il traffico. Focus Economia. I Allora, abbiamo ascoltatori che ci fanno domande più semplici, ascoltatori che via SMS invece entrano sul tecnico e ti bacchettano Moria, perché non si chiamano più incagli ma inadempienze probabili, a quanto pare, secondo la nuova disciplina. Però insomma, tanto quello sono, incagli sono, insomma, sempre quello rimango. Allora, qualche risposta agli ascoltatori. Allora, Antonio ci fa una domanda che però ci riporta più in generale su quello che è il sistema bancario italiano e che cosa rappresenta all'interno del sistema italiano. Ci scrive: quindi le banche che hanno tutte queste sofferenze hanno fatto male il loro lavoro? Allora, in parte sì, e in parte hanno concesso crediti a chi non li dovevano concedere. Poi c'è stata la recessione. Le banche italiane hanno indubbiamente un problema in molti casi. Ci sono stati, sono sulle cronache tutti i giorni, questioni di malagesto, comunque di crediti erogati a amici di amici. Questo è un problema che purtroppo c'è stato. Ma diciamoci la verità, gran parte di questi crediti deteriorati derivano da un paese che ha perso dal 2011 ad oggi quasi 10 punti percentuali di PIL e quasi un quarto degli investimenti. Abbiamo avuto una recessione pesantissima e siccome abbiamo un sistema imprenditoriale fatto di tante piccole imprese che si finanziano solo esclusivamente in banca, dal momento in cui il sistema imprenditoriale va in crisi il sistema bancario e viceversa. Le due sono due cose che si intrecciano l'una all'altra. Quindi la crisi delle banche è figlia di una recessione che è stata in parte causata proprio dal credito erogato dalle stesse banche. Quindi è un gatto che si morde la coda e che si è avvitato, ed è per questo che io ritengo, lo ritenevo anche in passato, che il problema dei crediti deteriorati andava affrontato molto prima, non oggi, ma almeno nel 2011, quando è iniziata la recessione. A dimostrazione di tutto ciò, se volete, un esempio di mix tra malagestio e crisi delle piccole imprese italiane è esattamente la Banca Popolare dell'Etruria, dove ha una crisi di un settore, di una banca tradizionalmente legata all'oro, per così dire, all'oreficeria, ad un distretto industriale, quello di Arezzo, che è andato in netta difficoltà, si è sommata evidentemente la malagestio della quale parlavamo. Qualcuno ci chiede più semplicemente: sono 350 miliardi, ma chi sono i debitori? Tutti, cioè dalla piccola impresa che non è più in grado di pagare il finanziamento, ai mutui non pagati, passando per il finanziamento per l'auto che uno non riesce più a sostenere, eccetera eccetera. Cioè questi 350 milioni di cui 200 miliardi di cui 200 miliardi di sofferenze vere e proprie, quindi crediti non più esigibili, sono composti da tutto questo, comprese quelli delle grandissime imprese che magari sono fallite e non sono state più in grado di ripagare i finanziamenti. Idea di sotterfugio per aggirare il no di Bruxelles alla bad bank esiste? Allora, si sta lavorando innanzitutto è non fare una bad bank singola per il sistema bancario, ma si sta lavorando sui casi di singole banche. E l'idea è quella di far sì che un'eventuale società veicolo, bad bank, che si compra questi titoli, si possa finanziare sul mercato con titoli, cioè scusa, che compra questi crediti deteriorati, si possa finanziare sul mercato emettendo titoli con garanzia pubblica. In questo modo si abbassa il costo della raccolta di questo veicolo, di questa bad bank, e questo mitiga un po', aiuta un po' ad assorbire le perdite. Però il problema è che questa cosa... È difficile che riesca a assorbire una perdita, un divario tra la domanda del mercato, cioè il prezzo a cui il mercato è disposto a comprare i crediti deteriorati, e il valore a cui le banche hanno iscritto questi crediti deteriorati. È difficile che questo meccanismo della garanzia riesca a colmare un divario così grosso. Quindi il problema è proprio questo. Uno dei motivi per cui le banche ieri crollavano in borsa è perché tanti temono che anche quando faranno questa sorta di bad bank sia peggio di non fare nulla, cioè che le banche si trovino effettivamente a incamerare una forte quantità di perdite per vendere questi crediti deteriorati e quindi che necessitino di nuovamente di capitale, di nuovi rafforzamenti. Quindi è questo che a ieri e oggi ha impaurito il mercato, cioè non si riesce a capire quanto dovranno svalutare ancora questi crediti, perché siccome si parla di tanti soldi, questo va a erodere il patrimonio delle stesse banche, o rischia di erodere. Adesso nessuno sa quanto vanno svalutate, questa è una grande incertezza, però il dubbio del mercato è proprio questo. Il tema dunque, appunto, è ancora una volta, e come spesso avviene quando vediamo movimenti di mercato così violenti, è l'incertezza quasi ancor più dei fondamentali. All'ascoltatore invece che ci chiede: ma si può sapere quante sono le sofferenze per ogni singola banca? Domani pubblicata sul Sole 24 Ore, comoda tabella esplicativa che vi darà i dettagli su tutto questo. Ampio spazio sul tema ovviamente anche sul Sole 24 Ore di domani, e grazie a Moria Longo del Sole 24 Ore. Grazie. Moria, a te, buona giornata. Buonasera. A chiudere parliamo di trivelle. poi è vero, ha ragione qualche ascoltatore che ci scrive, molta parte dei prestiti le banche li hanno concessi, non molta parte, una parte dei prestiti le banche li hanno concessi agli amici degli amici sapendo che non li avrebbero mai restituiti. Ora dobbiamo intenderci per che cosa intendiamo per amici degli amici, perché in parte sono i grandi casi di cronaca finanziaria che abbiamo raccontato in questi anni, pessimi. E poi però ci sono gli amici degli amici in provincia e i casi di Etruria, di Banca Marche, questa cosa ce la racconta. Parliamo dunque di trivelle, perché la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum sulle trivelle, uno solo. Il quesito ammesso riguarda la durata delle autorizzazioni a esplorazioni e trivellazioni dei giacimenti già rilasciate. A proposito, sono stati 9 consigli regionali. Il quesito era stato dichiarato ammissibile dalla Cassazione, inizialmente i quesiti referendari erano 6. E poi è successo che il governo è intervenuto con la legge di stabilità, ha modificato le norme e quindi gli altri 5 quesiti non erano possibili. Davide Tabarelli di Nomisma Energia, buongiorno, buonasera e benvenuto. Grazie, buonasera. Allora, la prima domanda che le voglio fare riguarda questo specifico quesito referendario, perché riguarda, va a toccare in sostanza quelli che sono i piani eventuali di investimento delle aziende, cioè nel momento nel quale un'azienda decide di esplorare, eventualmente trivellare e cavar fuori del petrolio dalle zone delle quali si parla, insomma il tema della durata delle autorizzazioni c'è ed è forte, no? Sì, qua il governo aveva detto che nella modifica che ha provato a fare per evitare il referendum, che dovevano durare per tutto il periodo utile allo sfruttamento del giacimento, che non è molto chiaro, perché c'è una cosa di geologia, perciò ci sono dei giacimenti che possono durare anche 100 anni, e pertanto è stato considerato ammissibile. Comunque ce n'erano altri 4 che erano più importanti, e la decisione della Consulta non fa altro che complicare una situazione su cui il governo aveva cercato di metterci una pezza per evitare il referendum, perché ci sarà questo referendum Election Day in grado di andare poi a spostare dei voti e magari negativi anche sulla riforma costituzionale. Questa è la certo. ragione, perché comunque il governo era già, una volta che parte questa iniziativa referendaria, aveva già perso, aveva già una partita chiusa di fatto. Vede, lei, voi parlate molto di banche, di contenzioso, il problema dell'Italia è quello che non cresce col PIL, e questo è un caso, questo delle trivelle che va avanti dal 2010, che è stata la prima iniziativa contro, è stato nel 2010, poi dopo iniziativa del governo Monti e poi lo sblocco Italia per cercare di favorire, consentire dei progetti che erano già stati decisi per 5 miliardi di euro. Un paese che ha sì. questi azzeccagarbugli che fanno con le regioni, che paghiamo con le nostre tasse per avere dei funzionari regionali che fanno dei referendum contro le decisioni di un governo, ecco, non può crescere. Mi scusi Tabarelli, il tema sul quale la volevo portare brevemente, perché siamo quasi in chiusura, è esattamente questo. Il punto è proprio questo: mi sembra che questo referendum metta a nudo il grande problema italiano, cioè chi decide la politica energetica. Guardi, la politica energetica è fissata dalla strategia energetica nazionale, che è un documento fatto benissimo dal loro Senni Leonardo, che era il direttore del Ministero dello Sviluppo Economico, approvato dal nostro governo con i ministri Clini e Passera, poi poteva passare al Parlamento, al CIPE, in cui si dice che la produzione nazionale di petrolio deve aumentare da 10 a 22 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, anche quella di gas, e questo non lo devi decidere, come erano i precedenti piani energetici dell'88 e dell'81, non c'è nessuna novità su queste cose. Noi consumiamo 120 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e gas che prendiamo dall'estero, tranne 10 milioni, possiamo raddoppiare, ci sono investimenti pronti, sì. Paghiamo i funzionari del Ministero dell'Ambiente che nelle commissioni via che dicono che queste cose si possono fare, perché si possono fare e le fanno in tutto il mondo, perché ci sono 1,5 milioni di trivelle. No, noi abbiamo comitati, no, abbiamo funzionari regionali che, ripeto, paghiamo con le nostre tasse, che sono lì ad annullare i provvedimenti, e poi paghiamo i super giudici della Consulta per decidere che una parte delle pezze che ci ha messo il... Ragazzi, non possiamo crescere in queste condizioni. Ho capito, Tabarelli, che l'ha presa male questo via libera della Consulta. Io la ringrazio comunque per la sua opinione. Ci segnala un ascoltatore, lo diamo come informazione di servizio, segnaleremo ai colleghi del GR che sono da 15 ore in coda a Cosenza sulla 3, a quanto pare c'è gente che si è messa in strada senza catene, ci sono due mezzi intraversati, l'abbiamo visto sulle agenzie, e quindi in sostanza non ci si muove finché non riescono a smuoverli. La maledetta Salerno-Reggio Calabria, eccone un'altra. La trasmissione torna domani dopo le 17, dopo il giro delle 17 con Sebastiano Barisoni. Le mie scuse a Giuseppe Cruciani per il ritardo, grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24, la passione si sente.